Mix 24 Storie di star. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. È il 6 giugno del 1962. Quattro giovani di Liverpool varcano per la prima volta la soglia degli studi di registrazione della EMI a Abbey Road a Londra. Insieme a loro un negoziante di elettrodomestici che fa da manager. Un anno più tardi da quel giorno, quei quattro sconosciuti musicisti di provincia saranno il gruppo più famoso nella storia della musica leggera. E la straordinaria epopea dei Beatles, e questa è anche la storia di una rivoluzione che ha dato voce a un pubblico trascurato e incompreso dalle generazioni precedenti, una band che con la sola forza della musica ha segnato la nascita della moderna industria dei concerti dal vivo, ma soprattutto della cultura giovanile di massa. Una vicenda fatta però anche di litigi, gelosie, malinconie. Oggi a Mix 24 raccontiamo la storia dei Beatles. È il 29 agosto del 1966 quando i Beatles salgono sul palco per l'ultima data del loro terzo travolgente tour americano. In quattro anni si sono esibiti più di 1000 volte davanti a 10 milioni di fan in adorazione, da Memphis alle Filippine. Quello però del 1966 a San Francisco sarà l'ultimo concerto dal vivo dei Beatles e chiuderà un tour memorabile. Barry Tation, Ed Freeman e Tony Barrow c'erano. Ed ecco a voi i Beatles! Quello dell'estate 1966 è un tour memorabile. Nessuno immaginava che sarebbe stato il loro ultimo tour e che Candlestick Park sarebbe stato il loro ultimo concerto dal vivo. Eravamo stremati, sfiniti. Non ne potevamo davvero più. Avremmo dato tutto perché quella cosa finisse. Non ci fu nessun annuncio ufficiale che non sarebbero mai più andati in tour. All'ultimo concerto del tour americano dei Beatles ci sono 25.000 persone, ma ufficialmente nessuno ha pensato di filmarlo. Tra il pubblico però c'è un ragazzino di 15 anni con la sua cinepresa e realizza uno straordinario documento storico. Quel giorno arrivai a Candlestick Park sul presto, quando cominciava a diradarsi la nebbia. Nessuno venne a dirmi che non potevo stare lì, che non potevo fare riprese o altro. Nessuno badò a me, nemmeno di sfuggita. La fama dei quattro ragazzi di Liverpool è dovuta anche a un'enorme quantità di esibizioni dal vivo che negli anni 60 non ha precedenti. All'inizio della loro carriera, i Beatles sono una cover band con un vasto repertorio di rock and roll. Ma al di fuori dei piccoli locali di Amburgo e dell'Inghilterra del nord-ovest sono dei perfetti sconosciuti. Almeno fino a quando il loro giovane e ostinato manager, Brian Epstein, offre loro un'opportunità unica. Il 6 giugno del 62 i Beatles arrivano ad Abbey Road nello studio di registrazione londinese della EMI, dove fanno un provino per il produttore George Martin. Ma né Martin né il suo ingegnere del suono Norman Smith rimangono particolarmente colpiti dalla loro esibizione. Sentiamo Norman Smith. Non fu certo un provino eccezionale. Quando ebbero finito, dallo studio li facemmo venire in sala di regia e George Martin gli fece un bel discorsetto su quello che ci saremmo aspettati da loro nel caso ipotetico in cui avessero firmato un contratto con la EMI, la più grande casa discografica del mondo. Finito il discorso, George Martin chiese: «Volete dire qualcosa?» Silenzio. Tutti muti. Poi, di punto in bianco, George Harrison, che non aveva mai smesso di osservare George Martin e me, gli dice: «Sì, non mi piace la sua cravatta». I Beatles ostentano sicurezza. È è un elemento che spiazza e colpisce, ma che alla fine conquisterà un'intera generazione di adolescenti e di giornalisti annoiati dal conformismo delle grandi star degli anni 50. I giornalisti Maureen Cleave e Chris Hutchins sono tra questi. Dobbiamo ricordare che a quei tempi i cantanti pop non avevano opinioni proprie. Che idea aveva Cliff Richard? Non so, spesso non avevano nemmeno il loro nome vero. Raramente si scrivevano da soli le canzoni, facevano tutto quello che gli diceva il manager. Erano molto umili. Compravano una bella casa alla mamma, erano grati alla vita e ai loro fan. I Beatles non erano niente di tutto questo. Non è che vuoi una sigaretta per caso? Sì, ce l'hai? Ne avevo una, sì. Quando sono arrivati loro hanno stravolto tutto. Grazie mille. Ah, grazie. Grazie. Era assai stimolante stare al fianco dei Beatles. Davano l'impressione di essere liberi. Non erano costretti a comportarsi come la società di quegli anni imponeva. L'immagine che i Beatles danno di loro appare radicale e temeraria, studiata a tavolino. Ma chi li conosce nel privato, come Tony Bramwell, tour manager del gruppo dal 62 al 70, sa che in realtà loro erano semplicemente se stessi. A parte noi, che eravamo il loro gruppo ristretto di amici e collaboratori, i Beatles non frequentavano nessuno. Non conoscevano nessuna persona cosiddetta normale. Vivevano in una dimensione un po' stralunata. Non avevano mai avuto un lavoro, un'istruzione superiore, una vita lavorativa. Erano passati dai banchi di scuola alla condizione di band più famosa del mondo. Alla condizione di Beatles. Vedi le tue foto. Leggi gli articoli su George Harrison, Ringo Starr, Paul e John. Ma non è che pensi, ehi, quello sono io, sono proprio io quello sul giornale. È buffo, è come se si trattasse di un'altra persona. È trascorso un anno dal deludente provino alla EMI. Ora però i Beatles sono il gruppo più famoso in Inghilterra. Grazie alla loro determinazione riescono a non farsi travolgere dalla crescente popolarità. Tony Barrow e Tony Bramwell. Tutto l'imponente fenomeno della Beatlemania poggiava proprio sul fatto che erano quattro normalissimi ragazzi di Liverpool. La mancanza di qualsiasi atteggiamento da divi faceva parte del loro fascino, del loro enorme potere di attrazione. Nell'estate del 63 facemmo una serie di settimane di vacanza in varie località di villeggiatura di tutta l'Inghilterra. Prendevamo il sole e giocavamo nella piscina degli alberghi. Un branco di ragazzotti di Liverpool in vacanza. Era praticamente la prima volta in un anno che passavano più di un giorno in uno stesso luogo. Potevano finalmente disfare la valigia nella stanza d'albergo e fare dei pasti come si deve, magari anche uscire. Anche se questo non era più tanto possibile, visto che siamo all'epoca di She Loves You, e già era il fine mondo. In vendita dal 23 agosto del 63, She Loves You è il terzo singolo di fila che raggiunge il primo posto in classifica. I Beatles ora sono una band a tutti gli effetti. Ma tanto successo di vendita è pure frutto di un calendario massacrante di esibizioni dal vivo. Tra il 63 e il 64, accompagnati da un piccolo entourage di amici che conoscono dall'infanzia, fanno più di 200 concerti in tutta l'Inghilterra. Le urla dei fan ai concerti rendono impossibile ascoltare la loro musica. È iniziata la Beatlemania. Ripartiamo da qui dopo la viabilità. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Mix 24, storie di star. Bentornati a Mix 24. Domenica 13 ottobre del 63 i Beatles arrivano al Palladium di Londra. Il clima di isteria che si è creato intorno all'evento non ha precedenti. I can't believe that she would leave me on my own. Erano loro i primi a essere scioccati. Non si aspettavano di poter riempire una sala come il Palladium di Londra. A fine concerto ero in camerino con loro e dicevano: e ora dove andiamo? Sapevano che avrebbero creato un pandemonio ovunque fossero andati. E John mi disse: andiamo a casa tua. Era il giornalista Chris Hutchins. 18 mesi dopo essere entrati negli studi di Abbey Road come una band di provincia senza contratto, i Beatles si trovano al centro di un fenomeno senza precedenti. Nell'estate del 64, accompagnati dal manager Brian Epstein, dal ristretto staff di amici e collaboratori, i Beatles partono per un tour internazionale che culmina con una serie di concerti in Australia. La gente ci chiede: quanto pensate di durare? E chi lo sa, uno può anche fare il presuntuoso e dire: dureremo 10 anni di sicuro, ma in realtà sa benissimo che è fortunato se riesce a sopravvivere 3 mesi. Nell'ambiente dello spettacolo, i 4 ragazzi di Liverpool hanno fama di essere più disponibili e alla mano rispetto agli altri colleghi musicisti. A confermarlo è Tony Newman, uno dei musicisti del gruppo Spalla dei Beatles nel 1964. Sapevi che se li avessi salutati loro ti avrebbero risposto: ciao, come va? Ci potevi sempre scambiare 2 parole, una battuta. Invece con gente come Elvis Presley, Cliff Richard o altri personaggi del genere non sarebbe mai stato possibile. Loro erano delle star. Ma ecco l'aereo che si avvicina. Qui purtroppo devo interrompere il commento perché intorno a me c'è un tale fragore che non sentireste nemmeno una parola. I Beatles arrivano a Sydney giovedì 11 giugno 1964. Ma anziché infilarsi di corsa nella solita limousine, come avrebbe fatto qualsiasi altra star del rock, salutano i fan dal loro pulmino. I Beatles sono contenti, ma anche un po' disorientati. La loro fama è arrivata dall'altro lato del pianeta. Come avete reagito quando le ragazzine hanno sfondato le transenne? È stata una cosa tranquilla, non volevano farci del male. Ti alzi la mattina e sei subito su un aereo. Non è esaltante essere continuamente in viaggio, ma è bello arrivare in questi posti e dare ai fan la possibilità di vederci dal vivo. Non ho incontrato gente strana che non mi sia piaciuta. Persino quelli che hanno tirato le uova si sono rivelati tipi simpatici. Cosa vi è piaciuto di più qui? Le ragazze sono fantastiche. Adoro queste ragazze. Buon rientro. Grazie mille. E toglimi le mani dal ginocchio. I Beatles erano disorientati da quanto stava accadendo. Erano diventati i personaggi più famosi nel mondo anglosassone. E in quanto in meno di 2 anni. Era la giornalista Maureen Cleave. A questo punto i Beatles sono il fenomeno commerciale più importante della storia della musica. Ora devono affrontare il mercato più vasto e più redditizio in assoluto, l'America. Larry Kane e Ivor Davis fanno parte di un gruppo di giornalisti che seguono i Beatles nell'avventura americana. Potevamo stare con loro, bere qualcosa insieme, intervistarli. Ti immagini oggi fare una cosa del genere con i Rolling Stones, Madonna o chiunque altro? Ti trovi 35 addetti alla sicurezza che ti bloccano. In quel viaggio con i Beatles invece andavamo su da loro e gli facevamo tutte le domande che volevamo. La tournée negli Stati Uniti fu organizzata con ritmi a dir poco concitati. Date in 24 città. Un'esperienza massacrante. Io ero stremato. Non credo di essere mai stato stanco come con i Beatles. E davvero non so come loro riuscissero a reggere. Stati Uniti, agosto del 64. I Beatles seguono senza fiatare il convulso calendario di impegni stilato in fretta e furia dall'uomo che con la sua immaginazione e ostinazione e incoscienza li ha portati dai piccoli locali di Amburgo e di Liverpool ai più grandi teatri del mondo, il manager Brian Epstein. Io non avevo alcuna esperienza nel mondo del pop, né nel management, né come agente di artisti pop. Per me era un mondo completamente sconosciuto. La cosa che più mi sorprendeva in Epstein era la sua fiducia incondizionata. Una volta mi disse che i ragazzini del 2000 avrebbero ancora ascoltato i Beatles, ed era il 1964. In soli due anni, Brian Epstein, ex proprietario di un piccolo negozio di dischi di provincia, deve organizzare la tournée più faraonica e redditizia della storia della musica. Ma già dal primo concerto al Co Palace di San Francisco si capisce che l'impresa è al di là della sua portata. Lo raccontano i giornalisti Larry Kane e Ivor Davis. 18.000 persone al Co Palace per due concerti. Una folla del genere non si era mai vista. E la situazione rischiava di sfuggire al controllo. Paul attaccava Long Tall Sally, iniziavamo a dirigerci verso la limousine. Finita la canzone, i Beatles dovevano saltare in macchina prima che la folla li raggiungesse. All'Empire Stadium di Vancouver, 29.000 spettatori paganti, il palco venne preso d'assalto da almeno 10.000 persone. Alcuni fan cominciarono a salire sul palco e dovette intervenire la polizia a cavallo. Mi misi a correre, tutti correvano, ricordo i poliziotti a cavallo, in fango. Al Cabana Motor Inn di Dallas, la folla premeva contro una grande vetrata e alla fine la sfondò. Tre ragazzi rimasero gravemente feriti. Non era uno scherzo, non era il set di A Hard Day's Night, lì si faceva sul serio. C'è sempre qualche aspetto negativo nel lavoro che fai. Nel nostro caso, l'unica cosa che ci dà fastidio, perché per il resto è tutto perfetto, è che non abbiamo abbastanza privacy. La folla dei fans li assedia. I Beatles possono solo rifugiarsi in camere d'albergo o aerei. Sono prigionieri. Erano talmente popolari che non potevano uscire dall'albergo. A Las Vegas, per esempio, gli portarono le slot machine in camera. Il primo tour americano dei Beatles è un progetto dominato dal totale caos, ma enormemente redditizio. È in questa occasione che si completa anche la metamorfosi dei quattro Beatles. Fino a ieri musicisti senza pretese e oggi le persone più famose del pianeta. In America i concerti avevano proporzioni che il mondo dello spettacolo non aveva mai visto prima. Eravamo davvero i pionieri di una nuova era dei concerti pop rock. I Beatles non avevano tempo per farsi contagiare da quella follia. Per loro era una cosa normale, come fare la cassiera in un grande magazzino, da Woolworth. Solo che loro di mestiere facevano i Beatles. Nel 65 cominciavano ad essere stanchi di tutta quella follia dell'improvvisazione. Volevano una tournée più ragionevole, con un calendario più accettabile, e la ottennero. Facemmo 14 città in 28 giorni o qualcosa del genere. Il concerto più grande fu quello allo Shea Stadium di New York. Il secondo tour americano dei Beatles, nel 1965, è organizzato meglio, meno confusionario. Al concerto di apertura del tour americano, allo Shea Stadium di New York, si esibiscono davanti ad una folla record di 55.000 spettatori. È il punto più alto della loro carriera, ma anche una dimostrazione di quanto sia frustrante esibirsi dal vivo in un contesto simile. Fu il massimo per entusiasmo, ma il peggio dal punto di vista acustico e musicale. Il pubblico era lontanissimo, faceva uno strano effetto e credo anche per i Beatles. Era a quasi 300 metri di distanza. A Abbiamo dimostrato che la gente può sentirci e nello stesso tempo urlarci sopra. Se vogliono gridare, sono liberi di farlo. Hanno pagato il biglietto per venire. Chi siamo noi per dire quello che devono fare una volta entrati? Le carenze tecniche ed organizzative del concerto allo Shell Stadium non si possono più ignorare. Il momento più esaltante della carriera dei Beatles diventa così la loro fine come band dal vivo. Così l'ha detto stampa Tony Barrow. Da allora tutto cominciò lentamente a sfaldarsi. Il clima si guastò, i problemi si fecero sempre più acuti. Non eravamo più una combriccola allegra e spensierata. I problemi dei Beatles in tournée non si limitano solo all'esibizione sul palco. Questi quattro ventenni richiamano decine di migliaia di spettatori e guadagnano più di qualunque altra band. Eppure la loro macchina organizzativa non riesce nemmeno a procurare loro un aereo come si deve. E a Minneapolis si rischiano grosso quando l'aereo prende fuoco in volo. Guardai fuori e vidi un lampo abbagliante e mi accorsi che il motore destro era in fiamme. Mi alzai con tutta calma e andai nella cabina di pilotaggio. Ma i due piloti non c'erano. Stavano sul retro a farsi un whisky e soda con i Beatles. La vicenda del motore in fiamme è un sintomo delle gravi carenze organizzative delle troupe dei Beatles. Una ingenuità, una disinvoltura che all'inizio possono risultare gradevoli, ma che alla lunga sono inaccettabili. Ripartiamo da qui, nel racconto della storia dei Beatles, dopo la pubblicità. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da... IBL Banca. Migliora la vita di tutti i giorni. Mix 24. Storie di star. Bentornati a Mix 24. È il settembre del 65. I Beatles si dividono tra caotiche tournée all'estero e una vita da celebrità in Inghilterra. Sembra passato un secolo dalla stagione dei concerti in provincia, eppure sono trascorsi appena 2 anni. 2 anni che hanno messo a dura prova i 4 ragazzi di Liverpool stanchi degli interminabili tour. Un mese dopo il rientro degli Stati Uniti sembrano sempre più distanti tra loro, sia come amici che come musicisti. Mi accorsi subito che c'era qualcosa che non andava. Non c'era più il vecchio feeling di una volta. Soprattutto tra Paul e John. Non c'era più quel vecchio clima familiare. Pensai, non mi piace, qui c'è un problema. He's a real nowhere man, sitting in his... Stavano maturando interessi diversi. George amava l'India. John voleva solo starsene in una camera d'albergo a leggere libri strani. Paul pensava soltanto al palcoscenico. Voleva essere Elvis Presley. Paul era l'unico ad avere una chiara visione del proprio ruolo nel mondo dello spettacolo. Fin dai primi tempi aveva detto a Brian Epstein: «Se per qualunque motivo i Beatles non decollassero, io continuerò da solo e tu sarai il mio agente». A prescindere dai soldi che guadagnate, vi piace stare sempre in giro per il mondo? Certe volte non è piacevole, altre volte sì, come con qualsiasi lavoro. Per noi non è una vacanza, non ci aspettiamo di vedere monumenti o di spassarcela. Se poi ci capita di divertirci mentre siamo in tournée, ben venga. Dal 1966 i 4 Beatles intraprendono un cammino personale. Ma nonostante le frustrazioni e la scarsa qualità musicale delle loro esibizioni dal vivo, Brian Epstein mette in cantiere un calendario addirittura più ambizioso dei precedenti. Nel giugno del 1966 i Beatles sono in Giappone, dove è stato predisposto un piano di sicurezza che sembra esagerato anche per il più grande gruppo musicale del mondo. Così lo ricorda la detto stampa Tony Barrow. I Beatles immaginavano che il gigantesco apparato di sicurezza servisse a proteggerli dai fan. In realtà non era affatto così. I i Beatles dovevano essere protetti dalle minacce di morte di un gruppo studentesco che diceva che l'arena del Budokan di Tokyo fosse un luogo troppo sacro per essere profanato da un complesso rock. Se un corpo di ballo giapponese arriva in Inghilterra, da noi nessuno si sogna di dire che trasgredisce chissà quale legge o tradizione, né che vuole offendere il retaggio culturale britannico. Noi siamo venuti qui semplicemente per cantare e perché ce l'hanno chiesto. Tutto qui. Guardare qualcuno che canta piuttosto che qualcuno che combatte. Nelle Filippine, invece, i Beatles ricevono un trattamento completamente diverso. Ancora l'addetto stampa Tony Barrow e la voce di Paul McCartney. A Manila offendemmo in modo molto grave e del tutto involontariamente la First Lady delle Filippine Imelda Marcos e suo marito, il presidente Ferdinand Marcos, perché non ci presentammo a un ricevimento al palazzo presidenziale. Nelle Filippine fu scatenata una campagna di odio contro di noi. Degli scagnozzi mandati dal palazzo cercarono di renderci il nostro soggiorno un inferno. Iniziano forti malesseri dovuti al panico da palcoscenico. Un disagio che poco a poco si trasforma in depressione. Harrison è anche il primo a rendersi conto pienamente dei limiti tecnici e musicali di quel tipo di esibizione dal vivo. Ma i Beatles hanno già firmato il contratto per un altro tour negli Stati Uniti e il problema della sicurezza si fa ancora più pressante per l'apparire di un nuovo pericolo. Tutto ha inizio con un articolo pubblicato su un quotidiano londinese. La giornalista Maureen Cleave, che segue i Beatles da anni, intervista John Lennon per il London Evening Standard. L'articolo viene pubblicato il 4 marzo del 66. Quel giorno ero andata a trovare John e mi ero messa a gironzolare un po' per casa sua. John aveva un mucchio di oggetti bizzarri, tipo un'armatura che lui chiamava Sydney, oppure un cane imbalsamato. Mi disse che in quel periodo era molto interessato alla religione, che stava leggendo libri sull'argomento, e alla fine se ne uscì con quella frase. In questo momento siamo ancora più famosi di Gesù. Disse che secondo lui Gesù era in gamba, erano i suoi discepoli a essere rozzi e ignoranti. Poi disse, non so chi sparirà prima, se il rock and roll o il cristianesimo. In Inghilterra, l'articolo su John Lennon di Maureen Cleave, Come vive un Beatles, non suscita polemiche. 4 mesi dopo, però, a 2 settimane dall'inizio della terza tournée dei Beatles negli Stati Uniti, una rivista americana lo ripubblica. Le polemiche diventano roventi. Roghi di libri e dischi a Longview, in Texas. Il Ku Klux Klan approfitta dell'occasione per manifestare tutto il suo fervore cristiano. I principi ispiratori del Ku Klux Klan sono sempre stati a sostegno del cristianesimo. Non riuscivo a credere a quanto accadeva. Non si capiva quale fosse il punto della questione. L'opinione pubblica inglese era disorientata da una reazione del genere. Qui siamo quasi tutti cristiani e crediamo in Dio e io non sono abituata a certe cose. Vuoi bruciare i dischi dei Beatles? Certo che li brucio. Davvero lo farai? Li ho già bruciati, a dire il vero. Non temete che questa polemica religiosa possa inasprirsi di più al vostro arrivo negli Stati Uniti? Sì, certo, sono preoccupato, ma spero che, come si dice, tutto si risolva per il meglio. Secondo te sarà una tournée problematica come quella nelle Filippine? Oh, no, no, no. No, andrà bene. Come fai a dirlo? Ah, Paul? Ti dico che andrà bene, vedrai, sarà magnifica. I Beatles arrivano a Chicago. È la prima data del loro nuovo tour. Li minacciano di morte. Li boicottano in radio e i loro dischi vengono addirittura bruciati in pubblico. John Lennon è il più angosciato. È l'addetto stampa Tony Barrow che deve prepararlo ad un'accoglienza molto ostile. Ci fu una riunione in albergo, nella suite di Brian Epstein, per parlare proprio di questo. Eravamo solo io, Brian Epstein e John. John disse, ditemi voi come devo gestirla. Dirò tutto quello che secondo voi dovrei dire, ma non ho intenzione di chiedere scusa, perché non credo di avere nulla di cui scusarmi. A un certo punto John era così stravolto che si teneva la testa fra le mani e singhiozzava. Piangeva a dirotto sul serio. La prima domanda, prego. Signor Lennon, può dirci cosa intendeva dire esattamente con quella frase? Ho detto quella cosa confidenzialmente a una persona che conoscevo e che tra l'altro è una giornalista. Le considerazioni che ho fatto nascevano da cose che stavo leggendo in quel periodo e che riguardavano il cristianesimo, solo che cercavo di esprimerle nel modo più semplice possibile, che poi è il mio modo naturale di parlare. E così è successo che ho detto quelle cose, più famose di Gesù, eccetera. La giornalista le ha riportate letteralmente, chi mi conosce ha capito il loro vero senso, perché sa che io parlo in quel modo, che non volevo affatto paragonare me o il gruppo a Gesù o alla religione, ma che volevo solo esprimere con semplicità un concetto complesso, come sto cercando di fare adesso. La spiegazione di John Lennon arriva tardi. Ed è comunque troppo ambigua per placare gli animi delle comunità cristiane più conservatrici. In qualità di ordine religioso, il Ku Klux Klan sarà presente la sera in cui suoneranno al Colosseum e cercherà di impedire la loro esibizione. La loro è pura e semplice blasfemia. Durante il trasferimento in autobus verso il Mid-South Colosseum, ci dissero di stare accucciati e di non farci vedere dai finestrini, perché temevano la presenza di qualche cecchino. Mentre i Beatles erano alla terza canzone, qualcuno dalla galleria buttò un petardo che esplose a mezz'aria. Ci voltammo tutti verso John sul palco e anche gli altri tre Beatles si girarono istintivamente verso di lui. Era come se ci aspettassimo di vederlo a terra, colpito da una pallottola. E le esperienze in Giappone e nelle Filippine hanno fatto passare a George Harrison la voglia di andare in tour? Ora anche un altro componente dei Beatles comincia a essere stanco di questa vita on the road. È John Lennon. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Nothing's gonna change my world. Non è un problema se ad alcune persone non piacciono i nostri dischi, o il nostro aspetto, o quello che diciamo. Hanno tutto il diritto di dire che non gli piacciamo. Come noi abbiamo il diritto di decidere di non avere a che fare con queste persone o di non considerarle. Ognuno ha i propri diritti. Esordio al successo planetario, l'ascesa è stata rapidissima. Concerti con migliaia di persone, ma anche con enormi difficoltà organizzative. E poi incidenti diplomatici, minacce di morte, manifestazioni di protesta. Il 29 agosto del 66 i Beatles arrivano a Candlestick Park, nella baia di San Francisco, per l'ultima data del tour americano. Ma la band più redditizia della storia si trova a esibirsi ancora senza le più elementari condizioni di sicurezza. Il promoter che organizzava il concerto di St. Louis non aveva voluto tirare fuori $400 per montare una copertura sul palco. Quella sera pioveva e i Beatles erano zuppi, come pure tutta la strumentazione. Tra Paul e il microfono si vedevano delle scintille. Ogni volta che toccava il microfono o ci andava vicino, prendeva una piccola scossa. Mi dissero che finché si trattava di piccole scosse andava tutto bene, ma se lo vedevo cadere a terra dovevo staccare subito la spina. Se era pericoloso? Certo che era pericoloso, potevano lasciarci la pelle. A ripensarci oggi ti rendi conto di come fosse tutto così dilettantesco. È la loro ultima esibizione e l'ultima dal vivo in assoluto ed entrerà nella storia. Il filmato amatoriale del quindicenne Barry Hood documenta comunque, senza alcun dubbio, l'impreparazione ed il dilettantismo dell'organizzazione. Mentre andavamo allo studio, Paul mi chiese se avevo portato il mio registratore. Risposi, sì, certo. E lui, ti dispiace registrarmi il concerto questa sera? Dopo la serata a Candlestick Park, scendemmo lungo la costa californiana fino a Los Angeles. Ricordo Paul che si sporgeva dal sedile di fronte al mio e diceva, hai registrato tutto? George Harrison si mise a sedere vicino a me e disse, ci siamo, da oggi non sono più un Beatle. L'industria moderna dei concerti live è nata un quarto d'ora dopo la fine di quel tour. L'industria moderna dei concerti dal vivo nasce dunque dal caos organizzativo delle tournée dei Beatles. Ma per il gruppo, in quanto tale, è il capolinea. Get back, Joe. go home.